24 Mattino. Berlusconi è tornato in gran forma, ha detto: mi sento come se avessi 40 anni, con la condizionale. A proposito, hai visto anche tu, candidato premier o generale dei carabinieri, c'è cioè uno in meno che potrebbe indagare su di lui, quindi... Ma sì, Gene Gnocchi, cattivissimo, mi sento un quarantenne con la condizionale, però teniamolo agli atti. Allora, oggi il racconto delle prime pagine. Repubblica. Ronde nazi, il silenzio a destra. Quell'immagine che vi abbiamo raccontato, 14-13, con la testa rasata, i bomber neri entrano, irrompono durante una riunione, in mezzo alla stanza ci sono le suppelletti, i giochi per i bambini, loro arrivano, leggono il loro comunicato ed è questo. Soloni dell'immigrazionismo ad ogni costo, incapaci di vedere che la loro logica malata sacrifica i popoli di tutto il mondo e tutti coloro che questi popoli mirano a sostituirli con non popoli. Per tutti voi, figli di una patria che non amate più, siamo qui a ricordarvi che proprio il popolo si ama e non si distrugge. Fermiamo l'invasione. Ora potete riprendere a discutere di come rovinare la nostra patria. Eh sì, discutiamo su come rovinare la nostra patria, perché a noi piace discutere. Anche se qualche testa pelata pensa che sia sbagliato, ci piace discutere. Allè. La Stampa. Cresce l'estrema destra, il seme dell'intolleranza contagia anche l'Italia. Blitz a Como contro un centro che aiuta i profughi, il disagio sociale leva degli ultra in vista del voto. Il Fondo di Cesare Martinetti, l'avanguardia che fa politica in casa nostra. La foto di prima della Stampa è interessante. I forzati del lavoro contro gli algoritmi. Da Amazon a IKEA montano le proteste dei nuovi dipendenti. Corriere della Sera. Sanzioni USA contro Kim. L'apertura internazionale ci consente di ricordare, per chi non c'era prima, di questa ultima follia del dittatore nordcoreano. Situazione disperata ma non seria, per ora anche seria. Strategie in Asia, la crisi e i progetti di Pechino di Massimo Gaggi. Mentre il Messaggero, manovra mossa sulle assunzioni, risorse per stabilizzare oltre 3.000 fra ricercatori universitari e impiegati della scuola, tensione nel governo sui bonus bebè. Eurogruppo, sfuma Padoan, un'altra sconfitta dell'Italia, dico io, Padoan battuto, avanza il portoghese. E sempre sul Messaggero, quella foto che ora darà l'inizio alla storia che voglio scegliere come copertina, quel fotogramma, quattro fotogrammi, l'avvelenamento in diretta, la morte in diretta colpisce sempre, è quello del generale samurai, così lo definisce Franco Cardini, suicida per le accuse sui crimini che però aveva compiuto, eh? Avvenire sul biotestamento, 10 nodi da sciogliere, dall'alleanza alla nutrizione, così la legge non va. Il quotidiano dei Vescovi spiega, intesa PD sinistra per portare la norma in aula al Senato, ma i tempi per l'approvazione sono stretti, niente accordo sullo Ius Culture. Tra l'altro c'è una storia di una deputata 5 Stelle che dice: voterò anche per la morte che ha colpito mia madre, drammatica. Air Force, Renzi, 150 milioni, è il titolo del Fatto, una saga, come sapete saranno almeno 5 prime pagine nel tempo contro l'aereo l'aereo esclusivo del commissionato dal Premier continua. Unione Europea, nuova sconfitta, no dell'Eurogruppo a Padoan, no per Padoan all'Eurogruppo. E poi Venezia, un soppalco, come si chiama tecnicamente, cioè un titolo sotto la testata, una meraviglia in svendita e la multa del sindaco pirata. Inizia il viaggio del Fatto nelle grandi città italiane. Libero, diamo 25 milioni al Ghana e solo 20 ai nostri disabili. Decisione balorda del governo. Gentiloni dona più quattrini alle piccole imprese del paese africano che ai malati gravi italiani. Studio di Cambridge, troppi immigrati creano disoccupazione in Europa. Renato Farina scrive questo pezzo e c'è un doppio parere, come capita spesso sul Libero, sia le pensioni a 1000 euro, bravo cavaliere Paola Tommasi, bravo un corno, le alza coi soldi dei lavoratori, Vittorio Feltri. Il Tempo. L'ultima versione di Fini, ecco perché ho mentito, il verbale scarica i Tugliani, disse il falso per salvare la famiglia, ora basta, ne va del mio onore, ma su Monte Carlo non convince. È interessante pagina 3 perché la storia di Fini è comunque un pezzo della storia della Seconda Repubblica e perché tutti ricordano quel video in cui disse se si dovesse scoprire che la casa è stata comprata da mio cognato mi dimetto. L'Italia si spegne e va bene così, Marcello Veneziani, un paese rassegnato all'estinzione, il manifesto. Il tetto che scotta è un titolo sulla casa delle donne e rischia chiusura, ma è una falsa copertina perché ce n'è un'altra dentro. La salute può attendere sulla polemica che riguarda l'Ilva, dove però c'è il ricorso di Emiliano, combattuto in maniera inedita sia da Calenda che dalla FIOM di Landini. Il Giornale. Cartelle esattoriali, ecco tutte le novità, rottamazione bis, oggi passa la legge, platea più ampia e tempo fino a maggio, pensioni, gli esuberi possono lasciare 7 anni prima e il fondo di Francesco Maria Del Vigo, sì, Travaglio se ne intende, i Zerbini, interviste sdraiate e la polemica ancora su Fazio e l'intervista a Fazio che era stata criticata da Travaglio. Il Foglio. Meno mance, più Ecole 42. In Francia Xavier Niel ha fondato una scuola privata di programmatori per investire sul futuro tecnologico del paese. Invece di parlare di bonus, pensioni, cosa aspetta la politica italiana a seguire l'esempio? Una proposta fattibile. È il fondo di Cerasa che prende un esempio meritorio, formazione invece che bonus. Ma l'apertura è Trump indebolisce l'America nel mondo a colpe di tweet corrosivi. Sì, perché in questo video ritwittato dal presidente degli Stati Uniti e preso da un gruppo estremista britannico ha turbato le coscienze. Non si capisce chi ispiri il presidente degli Stati Uniti e infatti c'è un fondo efficace su Repubblica, togliete Twitter a Trump, penso che bipartisan si possa accettare. Corriere dello Sport, firmano Roma a buon punto i rinnovi di Manolas e Florenzi e poi ovviamente un'intervista esclusiva a Wanda Nara, personaggio che mi ha sempre intrigato molto. E mentre invece la Gazzetta dello Sport ha diversi titoli, l'annuncio di Napoli-Juve che incombe domani, partita importante per il campionato, ma il ritorno di Alfa Romeo in Formula 1 ai primi passi è già passione. Il Sole 24 Ore, pensioni, bonus, imprese, le novità della manovra. Fra l'altro oggi arriva nuovo risparmio, 12 fascicoli per investire in formati, ma dentro, lo dovrò leggere, c'è il supplemento casa, molto bello, che spiega le novità del mercato, dove si sale, si scende. Ci sono segnali di ripresa su alcune piazze importanti, però lo leggerò. Il fondo sulla ripresa e i suoi rischi di Gianni Toniolo, perché serve un impegno dei partiti sul debito. Allora ho apparecchiato la tavola, ci sono molte cose interessanti e ci fermiamo un attimo per il meteo e torniamo insieme. Curiamolo, leviamogli il metadone. La vita che scorre, il tempo che ci avvolge, sono le notizie che ci colpiscono, è un'immagine che lascia il segno. Oggi l'immagine di un uomo che beve la cicuta, si uccide, muore in diretta davanti a tutti per gridare la sua rabbia contro una condanna. Però quest'uomo, anche nel momento della morte, va ricordato, è un criminale di guerra. È un uomo che ha pianificato la distruzione, è un criminale di guerra croato che propugnava la pulizia etnica. Allora, sul Corriere della Sera, come una storia, come un grande racconto, c'è un pezzo meraviglioso, sublime, di Francesco Battistini, è una pagina, ve lo dovrei leggere in integrale e invece lo scorrerò. Il vecchio bandito, i mostarini musulmani lo chiamavano così, il vecchio ponte distrutto. C'è del doloroso rispetto per il secondo, l'anziano generale sotto processo all'Aia, per aver bombardato lo Stari Most, c'è cioè solo rancoroso disprezzo. Slobodan Praljak non si è mai pentito di nulla, anzi, preferisco un dito e la mano di un soldato croato a qualsiasi vecchio ponte, diceva. L'arroganza con cui l'8 novembre 93 si vantò di aver cannoneggiato per 60 volte quella meravigliosa architettura ottomana che in 427 anni aveva sempre lasciato incontrare le due anime della città. Aveva resistito a tutto, ai colpi di mortaio lo Stari Most, e allora il giorno dopo la soldataglia croata dell'Herzeg Bosnia, un'autoproclamata repubblichetta di cui l'erzegovese Praljak era capo militare, decise di farla finita con tre granate. Alle 10:15 il simbolo della convivenza fra cattolici e musulmani precipitò con i suoi 456 blocchi di pietra bianca. È un grande pezzo, dicevo, un grande racconto, e spiega anche che Praljak ancora è considerato un eroe, malgrado mandasse gente a morire, malgrado deportasse persone. E allora ecco il punto, scrive Battistini sul Corriere, pagina 5. Praljak, come Mladic, condannato la settimana scorsa, è considerato in patria un eroe. Inutile ricostruire il ponte come hanno fatto italiani e turchi, francesi e olandesi nel 2004, proprio nei mesi in cui il generale veniva arrestato. Inutile metterlo sotto protezione, UNESCO, un facsimile di monumento sulla Neretva, appiccicato come la pace che divide bosniaci e erzegovesi. Il ponte senza anima che si ammira oggi a Mostar è il miglior bottino di Praljak, che in una vita precedente aveva fatto, pensate, anche l'ingegnere, poi il regista. E la cicuta dell'Aia, dice Franceschini, è stata in fondo la sua messa in scena finale, più che un viale del tramonto, un red carpet per le tenebre. È veramente bello questo racconto, perché i personaggi che segnano il tempo sono così, segnati di dramma, di ingiustizia e anche di vergogna. Allora, oggi non so come si percepiranno, forse come degli eroi, l'immagine che abbiamo visto, che vi abbiamo raccontato anche riproducendola con il suo sonoro, è quella dei ragazzi che irrompono. Ronde nazi, silenzio a destra, Repubblica punta il dito su tutti coloro che non condannano apertamente. Storace dice: mi ha fatto incazzare molto di più l'assalto all'autogrill che ha subito nei giorni scorsi Alemanno da parte dei centri sociali. Ma io non riesco a capire, intervistato da Alessandra Longo su Repubblica pagina 3, ma uno condanna gli insulti ad Alemanno in autogrill, ma condanna anche questo gesto. Qualcuno dirà: ma non hanno torto un capello, non hanno fatto nulla. Eppure quell'immagine con i bomber neri e le teste rasate dentro questo centro in cui ci sono negli scaffali vestiti, scarpe, giocattoli, ecco, questa immagine è un'immagine di violenza. Allora Paolo Berizzi scrive: è la rete nata nell'estate del 2016, quella dove c'era la riunione, per accogliere centinaia di migranti in transito nel arrivo a Como. Amici dei nemici e dunque nemici delle teste rasate del Veneto Fronte Skinheads. È una delle più antiche formazioni dell'ultradestra italiana, nato nel 86, razzisti e antisemiti, base all'Onigo in provincia di Vicenza, ma raggio di azione che si sta allargando in tutta la Lombardia. Il piano del blitz neofascista è anche scenico, studiato in ogni dettaglio. I 13 militanti sapevano che le varie anime del centro si erano date appuntamento per fare il punto sull'attività dei gruppi e sulle prossime iniziative. Ebbene, ho sentito dei rumori, racconta ancora spaventata Anna Maria Francescato, la giovane portavoce del centro. Sono andata a vedere e mi sono trovata davanti a questo gruppo di fascisti. All'inizio mi sembrava uno scherzo, una messa in scena. E ovviamente invece c'è quel messaggio, quell'insulto finale: noi vi abbiamo lasciato parlare e vi rispettiamo, e il ragazzo che se ne va dice: noi no. Che dire di tutto questo? Si commenta da solo. C'è un approfondimento sempre di Berizzi su Repubblica, l'avanzata della Galassia Nera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diverse formazioni della cosiddetta ultradestra stanno germogliando in Italia. Chi vuole la mappa la trova così su Repubblica. Allora, questa era sicuramente una notizia su cui valeva la pena di soffermarsi, ma ce n'è tante che vanno raccontate. Ovviamente una importante sull'Ilva, che reggeremo nella parte economica, ma sapete che potremmo andare in prorogatio? Sono parole latine di cui ormai, quando vengono adottate in italiano in questo modo, bisogna preoccuparsi. Allora, la prorogatio è il regime per cui un governo rimane in carica, magari perché non ce n'è un altro. La prorogatio ha funzionato in paesi come la Spagna, dove per lungo tempo non c'è stato un governo, e potrebbe, secondo quanto scrive Polito su Corriere della Sera, verificarsi anche in Italia, dove Mattarella e il Quirinale fanno affidamento sul fatto che il governo Gentiloni possa sopravvivere anche se non si riuscisse a farne uno nuovo dopo le elezioni. Quindi attenzione. Nel caso italiano, scrive Polito, non ci sarebbe neanche bisogno di dichiarare la prorogatio, visto che la Costituzione già prevede tutto. Quello che è importante, e a cui tiene molto il Quirinale, ed è che da qui alla fine della legislatura, un mese scarso, il governo non venga battuto in nessun voto di fiducia. Ecco spiegato perché lo Ius Soli, privo di maggioranza, è andato in soffitta. E anche sul biotestamento ci si muoverà con molta pazienza, visto che il mondo cattolico non è affatto venuto il via libera dell'ultimo discorso del Papa, come si lasciava presagire. Allora, la prorogatio, parola da portare, da tenere a conto, chissà che cosa accadrà. Veneto, addio. Vi ricordate l'attenzione che avevamo dedicato a Sappada, quel comune che aveva fatto un referendum per andare via dal Veneto e andare in Friuli? Bene, oggi Repubblica, immagino che i nostri ascoltatori, interattori, si preoccuperanno, quelli che sono in Veneto, fa una mappatura di quanti sono i comuni che hanno chiesto di lasciare la regione. Fa impressione questo dato, perché sono ben 32. Qualcuno vuole andare, 8 hanno chiesto di andare nel Friuli Venezia Giulia, 20 hanno deciso di trasferirsi in Trentino. È un focus di Repubblica, Giampaolo Visetti, due pagine, 24-25, una segnalazione che secondo me è importante. Allora, il caso di Mattia Palazzi continua a colpirmi, perché ci sono due verità non conciliabili. Nuove accuse sul sindaco, ricordiamo il sindaco di Mantova, un'altra donna lo accusa di concussione sessuale, lui continua a proclamarsi innocente e dice che soffre, che è vittima di una macchinazione. Però persino una delle due dice che non ci fu concussione sessuale, ma diciamo così un corteggiamento molto insistito, non legato a uno scambio. Fatto sta, se Palazzi, scrive Andrea Pasqualetto sul Corriere, pagina 20, se Palazzi non fosse stato il sindaco di Mantova e se lei non gli avesse chiesto un contributo in nome della sua associazione, la questione sarebbe rimasta probabilmente confinata ai loro iPhone personali e si sarebbe forse risolta nella reazione indignata della donna al tentativo di Palazzo di andare oltre, come peraltro, cosa peraltro successa. Ma il problema sono le allusioni del sindaco mescolate alla richiesta hot. Sai che un'associazione a volte non va avanti senza il mio consenso. Cerca di attenerti alle regole. Per la procura, che ha in mano anche altro, questa è tentata concussione. È un caso che farà scuola e che deve preoccupare. Su Repubblica, pagina 12, visto che parlavamo del fine vita del biotestamento, c'è questa storia che non conoscevamo, io non la conoscevo. Silvia Giordano, del Movimento 5 Stelle, intervistata da Giovanna Casadio: diremo sì al fine vita anche per mia madre che è morta di SLA. E ci sono le storie personali sempre dietro i gesti politici. Da Libero, invece, voglio leggere questo dato, diciamo controtendenza, anche qui c'è solo una fotonotizia, quella degli skinhead che rompono nel centro immigrati. Allarme invasione, pagina 2, ogni 100 immigrati in più 23 lavoratori perdono il posto. È uno studio dell'Università di Cambridge. Fra il 2008 e il 2010 licenziati 700.000 inglesi, stabili dipendenti stranieri. È ovviamente opinabile o va preso come tutti gli studi, che ovviamente è sull'Inghilterra, bisogna capire come si proietta sull'Italia, però ve lo do per completezza. Esce il nuovo disco degli U2, un disco molto politico, dice Corriere, pagina 47, Bono, e ci racconta anche che è ispirato a un gravissimo dolore che avrebbe subito, un dolore di cui però aggiunge nelle note del libretto, nel tempo dei pettegolezzi, non vuole parlare. Ovviamente pubblicizzando un disco che viene diffuso nel mondo è impossibile non immaginare, non chiedersi che cosa sia successo. Parlamento addio, ex ministri e peones salutano la poltrona, Ilario Lombardo sulla Stampa pagina 5, e poi due pagine sul Corriere della Sera, tutti coloro che per un doppio mandato non saranno ricandidati o non vogliono ricandidarsi o sono fuori dai partiti che li avevano eletti, Paolo Bonaiuti, Sandro Bondi, Bombassei, presidente della Brembo, Edoardo Nesi, lo scrittore, Andrea Vecchio, imprenditore edile, sono tantissimi, Rosi Bindi, sono tantissimi quelli che non rientreranno comunque in Parlamento, i giornali oggi li raccontano, il Corriere e la Stampa. C'è di nuovo Maretta nel centrodestra, Salvini attacca Silvio, ha passato ogni limite, è un centrodestra rissoso che tuttavia rimane unito. E allora stiamo seguendo il racconto della giornata, la Biancofiore, Micaela Biancofiore sul Fatto dà un'intervista molto personale a Antonello Caporale. Ed è un'intervista che va letta per questo ritratto incredibile della solitudine del parlamentare quando torna a casa, dice ho sacrificato tutto, gli affetti, l'amore per fare politica, ma me ne accorgo quelle sere che torno a casa, apro il frigo e mi trovo sola con un bicchiere di latte, intenta a guardare porta a porta. Sono immagini drammatiche, cara Micaela, e ti facciamo tutti gli auguri, perché non so se è più drammatico essere sola col bicchiere di latte o guardare porta a porta, ma tutte e tre le cose insieme sono tremende. Strade, e ci sentiamo subito dopo. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Mattino. Prima ci chiedono un tavolo. Faccio il tavolo, non si presenta il sindaco di Taranto all'ultimo minuto. Si presenta Emiliano, gli presentano il piano industriale e il piano ambientale. Dice sono contento perché ci sarà il tavolo su Taranto, è stato confermato, eccetera. Poi io sto per convocare il tavolo su Taranto, nel frattempo fanno partire un ricorso, ma è una gestione schizofrenica. Io non onestamente non capisco. L'ira di Calenda, un altro che ha detto che non vuole ricandidarsi, ma che continua a fare questo viaggio dell'orrore nella politica italiana dei voltafaccia continui. Ricordate le sue polemiche con il sindaco di Roma Virginia Raggi, ora vedete come parla di Emiliano. Sì, perché il nodo è che l'Ilva rischia di fermarsi dopo tanta fatica per il piano. Il ministro dice se il TAR accoglierà il ricorso che Regione Emiliano e Comune di Taranto hanno avviato, saremo costretti a spegnere l'impianto. E allora Domenico Palmiotti, Il Sole 24 Ore, pagina 11, l'affondo del governatore pugliese Michele Emiliano e del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha compattato tutti i sindacati. La CGIL, che aveva condiviso alcune posizioni critiche sull'ambiente, ora dice con Maurizio Landini che non è questo il momento dei tribunali e dei magistrati, ma della responsabilità e della trattativa. Ricorrere al TAR, commenta Bentivogli, segretario della FIM CISL, significa rinviare l'attuazione delle prescrizioni dell'AIA, compresa la copertura dei parchi minerali. Sì, perché se non si fa il piano di recupero non si attua neanche nessuno degli interventi di tutela ambientale che erano stati previsti. E allora si ferma tutto, spiega Palmiotti. Al Mise non si discute più del rilancio dell'Ilva e di bonifica ambientale. Gli investimenti complessivi di 2,3 miliardi assicurati da AM Invesco sono per ora accantonati. Il ministro dello sviluppo economico Calenda reagisce in modo duro alla decisione del ricorso. Ne vedremo delle belle, l'analisi di Lello Naso a Taranto, in gioco la credibilità del paese. Si poteva avere qualunque dubbio su chi vinceva o si aggiudicava il bando per il risanamento dell'Ilva, ma una volta che siamo in mezzo al viaggio, santo Dio, non ci si può fermare sempre in Italia, e quindi se sono uniti da Confindustria ai sindacati approfittiamo di questo momento per provare a salvare il nucleo produttivo dell'acciaio in Italia. Fra l'altro il piano riguarda sì Taranto, ma anche Genova e anche altri stabilimenti collegati. Allora, un'altra notizia dal Sole, pagina 10, di quelle che noi mettiamo nella bacheca, diciamo, futura memoria, Claudio Tucci ci racconta questo, emergenza lavoro, pagina 10, il Sole, l'industria cerca 272.000 addetti, segnate 272.000, non 272, ma tecnici e laureati non ci sono. Il fabbisogno al 2021, il 60% sono profili con titoli professionalizzanti. Quindi bisogna studiare e il lavoro si trova. Contrariamente al messaggio che cercano di darci, non c'è lavoro, il lavoro c'è. Repubblica, pagina 8, ci parla di questo benedetto bonus bebè. Il bonus bebè è il nodo del contendere, capite che si parlava di 80 euro per 3 anni, poi si è scoperto facendo i conti che date le risorse stanziate era 80 euro il primo anno e poi 40 e 40 gli altri due, si sono arrabbiati un po' tutti, però AP, il partito di Alfano, si è impuntata, Roberto Petrini, Repubblica, pagina 8, vuole gli 80 euro fino a 3 anni, nella versione attuale scende a 40 dopo il primo e allora oggi ci sarà la fiducia. Ultimo ostacolo per l'ultima finanziaria della legislatura che oggi affronta la doppia fiducia, legge di bilancio a Palazzo Madama e decreto fiscale alla Camera. La maratona notturna della Commissione Bilancio del Senato ha lasciato scontenti i centristi di AP che puntano i piedi. Il bonus bebè è frutto di un accordo politico e strategico ed è la condizione per votare la manovra. Vediamo se Alfano e i suoi saranno conseguenti, cioè che non votano la manovra se non c'è finanziato il bonus bebè per 80 euro 3 anni. Allora, ricordo ancora al volo che da oggi ci sono i fascicoli sul nuovo risparmio per investire informati e Corriere, pagina 37, me l'avevo segnato ma non mi sono appuntato che cos'era. Bene, siamo lessati. Ah no, era ancora il problema, sì, il problema importante dell'altra sconfitta che c'è stata dell'Italia. Doveva essere Padoan nelle nostre intenzioni il nuovo presidente dell'Eurogruppo, ma invece è stato bocciato. Di nuovo l'Italia non riesce a imporsi in Europa. Andiamo alla mitragliata. Signori, siccome avete protestato per Babbo Natale nei giorni scorsi, e allora tappate le orecchie ai bambini se siete in macchina, perché un'altra grande drammatica notizia raccontata da un grande scrittore italiano, Tullio Avoledo, sul Corriere della Sera. Signori, fermi, lo Yeti non esiste. C'è stato un esame, l'esame del DNA non serve solo per i criminali, per i sospetti. Bene, un approfondito esame del DNA ci dice che lo Yeti non esiste e che quello che era stato trovato sui reperti appartiene a un cane e a 3 diverse specie di orsi mischiati. Niente, niente, non c'è lo Yeti. Però c'è la zebra. Con 2B, zebra, sì, e questo è accaduto in una classe, una malcapitata, ce lo racconta il Corriere della Sera, insegnante di sostegno, è andata vicino a un bambino con un po' di prosopopea che stava facendo il compito, ha detto: oh, ma guarda piccolo, qua non si scrive zebra con una B sola, si scrive zebra con 2B. Sì, è vero, conferma Pasquale Aprea, il dirigente del plesso scolastico. L'insegnante ha sbagliato, ma quanto rumore per una sciocchezza, un incidente può capitare. Beh, insomma. E invece Rigopiano è un seminario sulla rabbia, che ogni giorno che esce una notizia mi viene il fegato gonfio. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi i soccorsi con raccomandazione, porta la ruspa là che c'è l'amico mio, salva questo, andiamo lì, entriamo nella spa e facciamo il bagno, se dobbiamo andare a salvare l'hotel. Però ora c'è anche le colpe delle vittime. Repubblica, pagina 22, il pezzo di Fabio Tonacci. L'hotel era completamente abusivo e dice: come hanno fatto a passare gli esami? Beh, perfetto, hanno fatto delle foto contraffatte e le hanno allegate al progetto. Ale, foto contraffatte. Sempre sul piano degli animali, una grande ricercatrice, ce lo racconta La Verità, pagina 23, Elena Gerzo, voleva continuare a indagare i fossili dei mammut trovati in un sito archeologico a Steggio, in provincia di Possagno. Non aveva i soldi e allora ha lanciato una raccolta, una colletta per indagare dei mammut italiani che io neanche sapevo che esistessero, quindi zebre con due B, mammut, Yeti, e diamole una mano a questa. Sole 24 ore ci dà le quotazioni dei cibi e degli alimenti. L'olio extravergine impicchiata a Bari un anno fa era 4,60 euro, oggi è a 4,05. Prezzi stabili in Spagna 3,56. Meditate e ci sentiamo subito dopo per i cani e per i gatti.